Dal 21 ottobre a Zoo, in Strada Maggiore, sarà esposta la mostra Come ogni lunedì, un anno di notizie illustrate da Alessandra Bruni, e noi siamo qui per parlarne proprio con lei. Quindi ciao Alessandra e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao a tutti e grazie per avermi accolto nella vostra radio. Allora, innanzitutto Alessandra, mi piaceva chiederti come nasce l'idea di illustrare delle notizie di attualità, no? Che poi è la base su cui parte la mostra, ecco. Ok, allora l'idea nasce grazie a Davide Calì che ha proposto questo progetto a me e a Simone di Frizzi Frizzi. Io ovviamente ho subito accettato perché mi piaceva moltissimo l'idea appunto di rappresentare ogni settimana una notizia perché è un ottimo modo per fare circolare l'informazione e per me ovviamente per tenermi anche allenata. Invece, che cosa porterai all'interno della mostra? Ci sarà una selezione, diciamo, delle tavole appunto uscite il lunedì o saranno visibili tutte? No, ci sarà solo una selezione perché in un anno abbiamo prodotto moltissime immagini, quindi abbiamo fatto una selezione di 20 notizie, selezionandole in base non solo all'estetica chiaramente, ma anche all'importanza delle notizie. Ci puoi fare magari qualche esempio di che cosa sarà possibile vedere appunto? Sì, allora abbiamo scelto di inserire sicuramente la primissima notizia che pur essendo più leggera era quella del Facebook down, non so se ricordate, poco più di un anno fa più o meno abbiamo avuto un crollo del sistema del social. Questa è stata la primissima notizia con cui abbiamo iniziato la rubrica. Successivamente abbiamo analizzato degli argomenti e dei temi molto più pesanti, chiaramente con uno spessore maggiore, come ad esempio la chiusura delle scuole per le bambine in Afghanistan, chiaramente l'inizio della guerra in Ucraina, la morte recente della regina Elisabetta, quindi i temi sono vari e alcuni più leggeri e altri invece con appunto uno spessore maggiore. Che cosa vuol dire per te illustrare appunto queste notizie di attualità, quindi riportarle in un disegno? Per me è una grande occasione perché ammetto che mi piace moltissimo tenermi informata e quindi fare ricerche su vari temi, sul tema della settimana, diciamo. Significa anche dare in qualche modo un valore aggiunto alla notizia. Ovviamente l'immagine deve catturare l'attenzione del lettore, deve riuscire a comunicare un messaggio nel giro di pochi istanti, quindi è anche un po' una sfida per me. Senti, come ultima domanda, invece Alessandra, ti volevo chiedere anche come avete scelto il luogo in cui appunto viene esposta la mostra, che ricordo dal 21 ottobre, perché è uno spazio particolare. Come sarà poi possibile visionare la mostra? Allora, la mostra sarà possibile visionarla nelle pareti di Zoo, che è un posto magico, una libreria e non solo speciale a Bologna. Ammetto che faremo l'allestimento proprio oggi e quindi la disposizione esatta ancora non l'abbiamo definita nel dettaglio, però non vedo l'ora di vedere anche la forma che prenderà sulle pareti di Zoo. Anche per ringraziare Zoo che ha deciso di ospitare le nostre immagini. Perfetto, Alessandra, ti ringrazio e appunto ricordo che la mostra sarà visibile dal 21 ottobre fino a quando, lo sai già? Sì, fino al 6 novembre. Ok, perfetto, grazie ancora, Alessandra. Grazie a voi.